svegliato e non avendo voglia di fare un cazzo mi sono riaddormentato. Mi son sognato che stavo facendo un milione di cose per cui mi son subito svegliato. Sono un grande stratega, un fancazzista, non ho proprio voglia di fare una sega. Sarà Patmax, ma mi ci hai rimesso la solo del Titanic un'altra volta. L'avevi già messo nella sfiga, nella canzone sfiga. Oh scemo, ma non lo vedi che ho usato un altro strumento? Ma e che strumento hai usato? Il kazoo. Che cazzo è il kazoo? È uno strumento del kazoo. Ma me lo so nel momento, perché non mi è ancora capito una sega di sto kazoo.